Il Capodanno di Bologna quest'anno, come sapete, non si realizzerà nel modo consueto. Infatti abbiamo deciso di non bruciare il vecchione in Piazza Maggiore, di non confermare questo rito scaramantico del rogo che dal 22 accompagna la nostra città, una storia straordinaria che abbiamo in parte anche raccontato grazie alle foto dei cittadini che in queste settimane online ci hanno inviato appunto le immagini dei loro vecchioni degli anni passati. Volevamo comunque affrontare l'emergenza sanitaria conservando la tradizione. Questo è stato un punto fondamentale anche da quando sono diventato assessore alla cultura nel progetto del vecchione di Capodanno, conservare questa tradizione e questo rito collettivo in un modo appunto alternativo per accogliere il nuovo anno insieme ai cittadini. Poi, come abbiamo detto quando abbiamo annunciato questa scelta, avremo modo l'anno prossimo poi di bruciare un vecchione, probabilmente alla fine dell'anno prossimo, quando ci auguriamo tutti che la pandemia sia terminata. Abbiamo voluto mantenere anche la tradizione del vecchione d'artista, appunto, coinvolgendo una delle disegnatrici più note a livello nazionale, che è Chiara Rappacini, in Arte Rap, che raggiungeremo tutti i bolognesi perché stiamo spedendo a casa una cartolina d'autore, proprio a firma di Chiara. Questa cartolina d'autore rappresenta di fatto un messaggio che il Comune di Bologna vuole dare a tutta la cittadinanza, un messaggio di speranza, in particolare la cultura. Abbiamo sempre sostenuto essere la speranza della nostra città nella sua capacità di aggregare, raccogliere, mettere insieme, unire in modi impensati e creativi. Abbiamo attraversato un'estate che ce l'ha dimostrato e che ci ha fatto davvero crescere e abbracciarci nonostante il distanziamento. E così volevamo anche durante questo Capodanno. Quindi la cartolina è un gesto ovviamente simbolico, ma è un modo di abbracciare ogni famiglia bolognese che a Capodanno si ritroverà, come sapete, anche per le regole che il governo ci ha dato, e sarà un modo per raggiungere anche le persone sole, le persone che saranno in casa e che purtroppo non poche dovranno affrontare questo ultimo dell'anno da soli. Sulla cartolina troveranno un nostro messaggio e l'invito a collegarsi sul sito del comune alle 23:45 del 31, dove li aspetta una sorpresa con un corto d'autore e alcuni video che sono stati prodotti dalla Cineteca e dal Teatro Comunale e delle sorprese che oggi non vi sveleremo perché ovviamente sono sorprese. L'idea di passare un Capodanno insieme ai cittadini e ai bolognesi che sceglieranno di collegarsi, ovviamente non è obbligatorio, però pensavamo fosse giusto far sapere che anche se la piazza non viene utilizzata, la città è presente e ha voglia di abbracciarsi e di stare insieme anche questo ultimo dell'anno. Un modo per stare insieme e nella solidarietà è l'iniziativa di crowdfunding Capodanno del Cuore, appunto rivolta ad Ageo per piccoli e grandi cuori, due realtà che, come dicevamo prima, sono da decenni impegnate per i piccoli pazienti, Ageop nei reparti oncologici e piccoli grandi cuori cardiopatici. Noi lavoriamo con loro come comune, anche come assessorato alla cultura abbiamo avuto diverse occasioni. C'è una campagna che parte da oggi su ideaginger.it fino al 10 gennaio. È possibile donare partecipando a questo Capodanno, ricevendo in cambio dei piccoli oggetti artistici e dei gadget. Questo Capodanno è reso possibile grazie a tante collaborazioni. Ringrazio ancora una volta il Dipartimento Cultura. Come sapete, le risorse che abbiamo solito in bilancio per il Capodanno sono state devolute agli operatori culturali della città attraverso due appositi bandi che erano già stati banditi e che hanno visto il budget di fatto raddoppiare, e quindi abbiamo utilizzato una piccola parte delle risorse del budget del Capodanno per realizzare questa iniziativa. Sarebbe stato, a mio avviso, un errore non farlo, e abbiamo quindi immaginato di fare questa cosa che corrisponde appunto allo spirito della nostra città, no? La creatività e la solidarietà.